121. Salsa di capperi e acciughe. Questa salsa, alquanto ribelle agli stomachi deboli, si usa ordinariamente con la bistecca. Prendete un pizzico di capperi indolciti, spremeteli dall'aceto e tritateli con la lunetta insieme con un'acciuga che avrete prima nettata dalle scaglie e dalla spina. Mettete questo battuto a scaldare al fuoco con dell'olio e versatelo sulla bistecca che appena levata dalla gratella avrete condita con sale e pepe e unta col burro. In questo caso però ungetela poco, perché altrimenti il burro farebbe nello stomaco a pugni con l'aceto dei capperi.